Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis. Se il paradigma dominante della chimica del petrolio sono le economie di scala, nella chimica verde, la chimica basata sulle biomasse, il paradigma dominante è l'economia di filiera. Che cosa vuol dire concretamente? Primo, che per fare chimica verde c'è bisogno di una concreta disponibilità di biomassa a corto raggio. Secondo, che affinché i conti tornino, quelli economici, bisogna andare oltre la mera produzione di biocombustibile ed estrarre anche quei fine chemicals, quei composti chimici ad alto valore aggiunto di cui la biomassa è ricca. Ma c'è un terzo aspetto. La chimica verde è flessibilità contro standardizzazione, una sfida di cui parliamo con il professor Flavio Manenti, che è professore sia al Politecnico di Milano che a quello di Berlino. Buonasera Manenti. Buonasera a voi. Allora, affrontiamo questo argomento a partire da un caso concreto su cui torniamo stasera dopo la puntata di ieri, che lo ricordiamo è il progetto Bioman, un piano di riconversione delle ormai inattive raffinerie di Mantova in un polo della chimica verde. Questo progetto è stato curato dall'Agenzia Agire, Università di Parma, dal Politecnico di Milano e dalla provincia di Mantova. Dunque Manenti, come c'è la frutta di stagione c'è anche la biomassa di stagione. Questo rende la chimica verde molto diversa da quella tradizionale. Sì, in effetti la rende particolarmente diversa. Consideriamo che nella chimica tradizionale si partiva da un greggio che, seppur con diverse qualità e diverse proprietà chimico-fisiche, era comunque un prodotto di partenza, quindi una materia prima di partenza abbastanza standard. E questa portava a ottenere dei prodotti più o meno standardizzati, pochi prodotti comunque ben definiti, la benzina, l'olio, il cherosene e quant'altro. Per quanto riguarda un discorso di bioraffineria, qui c'è una forte stagionalità invece della materia prima all'ingresso dell'impianto, pertanto c'è la necessità di valutare diverse forme vegetali, che siano esse di scarto o che siano delle culture particolari, al fine di produrre diversi chemicals con un bouquet che è molto più ampio di quello di una chimica tradizionale. Ecco, e quindi anche i processi chimici devono essere molto più appunto flessibili, cioè la chimica tradizionale, diciamo, una materia prima standard è più o meno quel processo lì, uno è sempre quello, qui invece bisogna riuscire a cambiare. Sì, diciamo che non c'è un unico processo nemmeno nella chimica tradizionale, sì. Però ci sono ben pochi processi e molto definiti. Per un discorso di trattamento delle biomasse invece c'è la necessità di avere molta più flessibilità in termini quantitativi ma anche qualitativi. Questo comporta ovviamente ad avere più processi in parallelo che siano in grado di trattare in inverno, in autunno, in estate, in primavera, quella che è la variabilità della biomassa ed ecco, ottenere quindi una serie di prodotti. Di prodotti. Facciamo un esempio, proprio magari relativo al caso Bioman. Beh, nel caso Bioman abbiamo per esempio 4 macrofamiglie di biomassa all'ingresso come input, sono le vinacce, c'è l'arundo che è la canna comune, poi ci sono i cimali dei pioppi, e per esempio c'è il verde pubblico, gli sfalci, certo, del verde pubblico. Tra queste varie famiglie di biomasse, ad esempio nella stagione delle vinacce, quindi prevalentemente in autunno, si avrà la possibilità di ottenere una stream di polifenoli in uscita come prodotto e una stream di metanolo. Entrambi i prodotti peraltro sono molto validi per quello che è l'indotto industriale mantovano. In altre stagioni invece, dove la raccolta dell'arundo magari è preponderante rispetto alle altre culture, si potrà avere una combinata di prodotti che siano etanolo e metanolo, sempre idonei comunque a quella che è la domanda di mercato di Mantova. Della zona circostante, che questo è un altro ragionamento che avete fatto molto importante, biomassa locale, anche utilizzo possibilmente locale dei derivati. Assolutamente sì, diciamo che la bioraffineria è un concetto molto simile a quello del sarto come abito. Se ci si sposta soltanto 30 km a nord nel basso veronese, il concetto di bioraffineria è completamente diverso sia in termini di input di biomassa che in termini di prodotti finali, perché cambia la tipologia della tradizione agricolturale della regione, cambia quello che è l'indotto di utilizzo dei prodotti, l'indotto industriale. Ecco, ma tutto questo come incide sui costi di un impianto, di una raffineria? Tra l'altro nel vostro caso che è interessante proprio perché potrebbe ripetersi, partite da un impianto industriale, da una raffineria esistente. Questo è molto importante questo aspetto, poiché il concetto di bioraffineria e soprattutto di flessibilità di processamento di una biomassa stagionale a più prodotti decisamente richiede un utilizzo di svariati processi che sono anche molto diversi l'uno con l'altro. Il fatto di appoggiarsi ad un processo esistente che sia attualmente dismesso o solo utilizzato in parte, parzialmente utilizzato, questo permette di usufruire di processi specifici che non devono essere necessariamente rifinanziati, reinstallati e riaccesi. L'esempio su Mantova è che alcuni processi come il wastewater treatment, come la distillazione, la purificazione dei composti, i trattamenti termici, i recuperi energetici sono già presenti sul sito e pertanto questi devono essere utilizzati e possono essere utilizzati così come sono per il trattamento delle biomasse. Altri processi invece necessitano di alcune modifiche, comunque sia nuovi processi devono essere comunque installati, perché non dimentichiamoci che un concetto di raffineria tradizionale aveva come input un liquido, in questo caso l'input è un solido, banalmente, insomma, non è una differenza da poco. Va bene, grazie, grazie Flavio Manenti. Ma figurati, grazie mille Maurizio a te e a tutto il lavoro che fate. Ci fermiamo qui, appuntamento a domani.